rivincita delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e benvenuti a una nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Ciao Erika. Ma ciao Carlotta, buongiorno, sei tornata finalmente. Ebbene sì, dopo la trasferta a Napoli eccomi di nuovo qua. Potete contattarci come sempre al numero 333-180-9494 sia tramite SMS o anche WhatsApp. Oggi parleremo di musica, in particolare di una musicista jazz, di un arpista anzi jazz, che si chiama Dorothy Jean Thompson, meglio nota anche come Dorothy Ashby. Esattamente, è una puntata particolare perché non sarà soltanto la rivincita di questo personaggio importantissimo per la storia del jazz, ma anche di uno strumento. Esatto, abbiamo portato la rivincita dell'arpa. Esattamente, e però prima di andare con il jazz vogliamo proporvi una canzone napoletana. Perché hai scelto Liberato? Me lo spieghi? Allora, io amo profondamente Liberato, non so chi sia, chi ci sia Erika dietro. Che ci sia dietro la maschera, diciamo così, di Liberato, però mi piace, poi perché mi piace anche un po' la musica elettronica, no? Però l'ho scelto in particolare per oggi per festeggiare il rientro di Carlotta dalla sua trasferta napoletana. Oppure per farmi ricordare emozioni. I bei momenti trascorsi a Napoli. Esatto. Napoli è una bellissima città, ragazzi. Sì, davvero. Perciò ci ascoltiamo una canzone di Liberato e poi torniamo qui. Rimanete sintonizzati. Mergelli non va la macchio e cinque la mattina it's me and you la rosa ci da spin se mi sa senza te la batter in tuo cuore tu te scordate di me e gira Mergelli da porta dove tu un mezzo bacchettina it's me and you la rosa ci da spin si stonga senza te la pioggia in tuo cuore tu te scordate di me. Pure tutto blu, parlamo chiaro chiaro, it's me. Eccoci sulla rivincita delle bionde per questo nuovo scoppiettante lunedì, anzi per la pausa pranzo del lunedì, è Erika Verdecchia e Carlotta Calarese. Anche se noi non mangiamo mai comunque. Noi non mangiamo mai perché vi teniamo compagnia. Lo facciamo solo per voi. Esatto, ma mangiamo dopo. Comunque potete scriverci in diretta tramite SMS o WhatsApp al numero 333-180-9494. Ecco, abbiamo iniziato la puntata con una musica, un brano anzi assolutamente trash. Vi dico di più, no, mentre andava il brano la vostra amata Erika ballava e cantava, quindi è a un livello abbastanza grave, ragazzi. Ma siccome sarà una puntata tutta all'insegna del jazz, volevamo iniziare con qualcosa di diverso, mettiamola così, e quindi abbiamo scelto Liberato, l'amato Liberato, anche per ricordare la trasferta napoletana di Carlotta. Ma adesso invece inoltriamoci nell'argomento della nostra puntata, quindi nella biografia di Dorothy Thompson, anche conosciuta meglio come Dorothy Ashby. E Dorothy è cresciuta a Detroit, è un'afroamericana ed è una figlia d'arte, perché suo padre Wiley Thompson era un chitarrista. Ha frequentato la Class Technical High School, che appunto è stata una scuola dove hanno studiato anche altre figure del jazz, come Donald Byrd, ad esempio, con il quale lei successivamente ebbe una collaborazione musicale. Tra l'altro, mentre andava al liceo, ha iniziato ad approcciarsi a tantissimi strumenti, incluso il sassofono, il contrabbasso, prima di suonare l'arpa. Poi, dopo il liceo, ha frequentato la Wayne State University di Detroit, dove ha studiato anche pianoforte e anche educazione musicale. Dopo essersi diplomata, in realtà iniziò a suonare il piano nella scena jazz di Detroit, anche se però nel 1952 più o meno inizia a studiare l'arpa come strumento principale. All'inizio i suoi colleghi musicisti, comunque nel panorama della musica jazz, che era principalmente studiata e frequentata da ragazzi, da maschi, non era gradita l'arpa come strumento, cioè credevano che non fosse capace di raggiungere quelle sonorità che erano appunto tipiche del jazz, perché lo vedevano come uno strumento tipico della musica classica e tradizionale. In realtà poi Ashby ha superato queste resistenze iniziali e ha utilizzato l'arpa come appunto strumento jazz. Ma adesso direi di ascoltare la prima parte della nostra intervista fatta Francesco Bettini, che ricordiamo è il direttore artistico del Bologna Jazz Festival e anche del Torrione a Ferrara. Quindi ascoltiamo le sue parole. Volevamo chiederti se ci potevi parlare un po' della biografia di questa arpista jazzista Dorothy Ashby. Io premetto che non la conosco benissimo, nel senso che è sicuramente una figura interessante nel panorama delle figure femminili che hanno avuto una carriera di rilievo nell'ambito della musica afroamericana, soprattutto dalla fine degli anni 50 e negli anni 60. Però suonando l'arpa, come dire, non è chiaramente uno dei vertici assoluti di quel momento storico, che era fortemente connotato dal bebop e conseguentemente dall'arbop, e che insomma per sonorità e tipologie di fraseggio era molto difficile da fare, su uno strumento pizzicato a corde come l'arpa. Però insomma lei, venendo dal mondo della musica classica e avendo peraltro la sua formazione potuto conoscere alcuni musicisti, tipo per esempio Donald Byrd, che partiti come musicisti appunto di classica, poi che avevano sviluppato la carriera invece in ambito jazzistico, si è inserita in questo ambiente ed ha inserito soprattutto per la prima volta l'utilizzo dell'arpa come strumento solista, cioè non semplicemente, non so, come quando avveniva che c'erano i solisti che suonavano con delle orchestre sostanzialmente sinfoniche, quindi basti pensare, non so, Charlie Parker con gli archi o tante produzioni che si facevano in quegli anni, dove c'era anche in taluni casi l'arpa, ma utilizzata esattamente come uno strumento di musica classica. Invece lei lo sviluppa, appunto, riproduce, diciamo, quelli che sono i fraseggi sassofonistici e pianistici su questo strumento come strumento solista nel bop. E da lì fa una felice carriera collaborando con tanti importanti musicisti dell'epoca, fino sostanzialmente agli anni 70, quindi fino ad entrare anche in una corrente dove molti jazzisti andavano a guardare anche la musica, diciamo, di altre tradizioni del mondo, per cui suonerà una specie di arpa orizzontale giapponese, poi, come dire, un'altra figura che come lei si andrà ad imporre in tutto quello che, diciamo, diventato poi lo spiritual jazz, ma anche la world music. Altra artista importantissima, forse meglio conosciuta ancora di lei, perché fu la compagna di John Coltrane, Alice Coltrane, appunto, si, diciamo, innesta parallelamente a questa che invece è stata una figura di apripista proprio per l'utilizzo di questo strumento. Ed eccoci ritornati sui 103.1 di Radio Città Fosico per la rivincita delle bionde. Abbiamo appena ascoltato Dancing in the Dark di Dorothy Ashby. Questa puntata non è semplicemente dedicata alla musica jazz, ma in realtà abbiamo deciso di portare appunto una doppia rivincita, ovvero la rivincita di questa grande donna, grande musicista e arpista Dorothy Ashby, ma anche la rivincita di uno strumento come l'arpa, che all'inizio era considerato esclusivamente come uno strumento di musica classica. Esattamente, e tra l'altro Dorothy, la stessa Dorothy Ashby, inizialmente dovette superare numerosi ostacoli durante la sua carriera musicale, proprio perché tutti quanti le sconsigliavano di suonare l'arpa, perché non era uno strumento adatto al jazz ma solamente per la musica classica. Però all'inizio degli anni 50 e poi per tutti gli anni 60 inizia ad essere sempre più apprezzata dalla critica, e forma un trio con suo marito John Ashby, che suonava la batteria, e iniziano a fare dei tour in giro per il paese e a registrare degli album per diverse etichette discografiche. E tra l'altro ha suonato con artisti come Louis Armstrong e Woody Herman, e nel 62 ha vinto anche dei premi critici per la musica jazz, e quindi ha iniziato ad essere considerata sempre di più una jazzista a tutti gli effetti. Sì, ha superato quei limiti e quegli ostacoli che la maggior parte del pubblico e anche dei suoi colleghi musicisti gli poneva davanti, quindi ha rivoluzionato lo strumento, cioè l'arpa. Sì, e anche il jazz, introducendo proprio queste nuove sonorità. E a proposito di questo, ascoltiamo la seconda parte dell'intervista al nostro Francesco Bettini. Poi un'altra cosa interessante, parlando di Dorothy Ashby, è il fatto che sia una delle poche musiciste donne in un contesto dove jazz di quegli anni, le musiciste femmine erano pochissime ed erano relegate soprattutto ai contesti vocali o pianistici o per esempio appunto delle organistici tipo l'organo Hammond. E questo perché? Perché comunque la formazione tradizionale di una donna musicista di colore era appunto suonare il piano e l'organo in chiesa sostanzialmente, e lei è una delle antesignane di questo momento in cui comunque, sebbene poche, e cominciano ad esserci le strumentiste anche nell'ambito del jazz. Oggi è una cosa abbastanza normale, cioè, se guardiamo anche per esempio il programma del Torrione nei prossimi giorni, visto che siamo spesso presenti nella stessa sala a sentire i concerti, se viene, non so, una contrabbassista italiana che è la bassista di Pat Metheny, che è Linda Ho, una pianista giapponese che è Chiro Yamanaka. Comunque, insomma, è sempre più frequente che le donne siano anche sassofoniste, trombettiste, via dicendo. Insomma, quindi si è, diciamo, sdoganato negli anni questo ruolo un po' recluso delle figure femminili nel jazz. Thank you. Abbiamo appena ascoltato un brano di Dorothy Ashby che si intitola The Look of Love, lo sguardo dell'amore, Carlotta. Riesci sempre a mettere il dito nella piaga. Vabbè, noi siamo un po' de dell'amore, no? Ma certo, noi siamo troppo romantiche. Innamorate dell'amore, esatto, mettiamola così. Della musica, della vita. Esatto, e una dea della musica invece è stata Dorothy Ashby, assolutamente, che è stata anche un'artista a 360 gradi, perché non so se tu lo sapevi, ma negli anni 60 conduceva anche un programma radiofonico tutto suo a Detroit. E magari riusciamo a diventare famose come lei, no? Ma magari, magari è la nostra santa patrona. Esatto, della santa, radio. Santa Dorothy Ashby, patrona della radio. E comunque, proprio perché era un'artista poliedrica, con suo marito, oltre a formare il trio di appunto musica jazz, si dedicò anche al teatro, perché negli anni 60 formarono un gruppo teatrale per appunto produrre delle opere teatrali pertinenti alla comunità e alla cultura afroamericana di Detroit, e questo gruppo di produzione ha avuto dei nomi diversi a seconda appunto degli spettacoli che producevano. Tra l'altro il gruppo di produzione teatrale chiamato The Ashby Players non solo ha prodotto un teatro, ha costruito un palco che accoglieva gli afroamericani a Detroit in un periodo storico in cui venivano ovviamente purtroppo discriminati, e anche in Canada, ma ha offerto varie, tantissime opportunità per quanto riguarda appunto il teatro e la recitazione a tantissimi attori afroamericani, come per esempio Ernie Hudson. Alla fine degli anni 60, tra l'altro, gli Ashby, quindi moglie e marito, abbandonarono i tour e si stabilirono invece in California, dove tra l'altro Dorothy iniziò a registrare in studio come appunto arpista, grazie all'aiuto anche del cantante soul Billy Withers. Ma adesso ascoltiamo l'ultima parte dell'intervista al nostro caro Francesco Bettini e ci risentiamo fra pochissimo. Invece, parlando dell'arpa, i giorni d'oggi, un musicista che si sta facendo conoscere e apprezzare in tutto il mondo suonando questo strumento in maniera assolutamente jazzistica, ed è, ripeto, una rarità e continua ad essere una rarità, è un musicista sudamericano che si chiama Edmar Castaneda, che è un virtuoso impressionante di questo strumento, e con l'arpa fa cose assolutamente, tecnicamente, a dei livelli quasi come dire impossibili, e la riesce a utilizzare proprio con fraseggi jazzistici con grande facilità, dicendo. Ecco, e poi tra l'altro è uno strumento che non conosco bene, ripeto, perché per esempio non mi è mai capitato di organizzare un concerto con un artista solista, però so che ne esistono diversi tipi e che consentono in taluni casi, attraverso l'utilizzo di pedali, di variare l'aspetto armonico, quindi rendere più facile, la possibilità più ampio, il registro dell'improvvisazione. So che lo fa Castaneda, non so sinceramente l'arpa che usava la Ashby fino agli anni 50, se avesse un sistema analogo, fosse diciamo quella più appunto ad uso dei musicisti classici in senso stretto, però ecco, quello che vi posso dire è questo, è sicuramente interessante appunto ripercorrere la sua carriera e qualche sonata biografica proprio alla luce di questi temi che vi dicevo, cioè il fatto che fosse una donna, il fatto che fosse di colore, il fatto che si sia imposta in un contesto ultra maschile, in certo qual modo maschilista, che è quello del jazz, attraverso uno strumento inusuale, che quel linguaggio che viene appunto dalla tradizione della musica classica. Certo, allora hai anticipato la nostra domanda, quindi sa che va bene così. Perfetto, no, davvero, cioè sei stato proprio esaustivo, perché hai anticipato due domande che volevamo farti, che era una appunto delle figure femminili nel panorama negli anni 50 così, nella musica jazz, e poi quella sulla anche l'evoluzione dell'arpa ai giorni nostri nel jazz, quindi io direi che va è perfetto. Bene così, sì. Eccoci qui, abbiamo appena ascoltato un brano di Edmar Castaneda, che ricordiamo tra l'altro che è un grandissimo arpista, abbastanza appunto noto e famoso, che utilizza appunto l'arpa come strumento principale. E noi ricordiamo che oggi abbiamo appunto parlato di una doppia rivincita, ovvero quella di una di Dorothy Ashby come musicista, soprattutto donna e afroamericana, in quegli anni, in quei contesti in cui gli afroamericani purtroppo erano esclusi dalle scene artistiche, e soprattutto in quegli anni in cui le donne regolarmente erano abituate a studiare, a suonare il piano in ambienti come la chiesa. Quindi lei ha avuto la sua rivincita e ha rivoluzionato anche uno strumento come l'arpa, quindi sì, anche la rivincita dell'arpa, no? Esattamente, ha rivoluzionato anche la musica jazz introducendo questo strumento inconsueto per la musica jazz, e grazie a lei se tuttora nelle formazioni jazz ci sono anche degli arpisti, e quindi se questo strumento poi è rimasto nella tradizione musicale del jazz e ha anche il suo ruolo di solista, e quindi un ruolo abbastanza protagonista. Esatto. Noi ringraziamo Francesco Scubettini per il suo contributo e per le sue interviste. Ma la pillola del giorno è un po' di tempo che non prescriviamo il nostro farmaco del lunedì. Allora, che mi dici? Allora, oggi vi proponiamo una web radio concorrenza. Esatto. No, strana. In realtà è una web radio che si chiama La Radio delle Donne ed è una delle poche radio femministe in Italia. Tra l'altro è stata fondata da tre donne che scrivono anche nella rivista online Marea, quindi vi consigliamo di darci un'occhiata, di un'ascoltata. Esatto, fanno ovviamente trattano ovviamente argomenti sul femminismo in Italia e non solo, quindi se vi va di ascoltarle fatelo pure. Bene, e la nostra puntata si conclude qui, ma noi vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo, sempre alle 13, dalle 13 alle 13.30, sempre sui 103.1 di Radio Città Fucico. Con Erika e Carlotta Calarese. Una buona giornata a tutti. E restate in ascolto.